in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Oggi, come sempre, ci sono anche i supplementi culturali, quindi vediamo le prime pagine, poi dedichiamo un po' di tempo agli approfondimenti. E cominciamo dal Sole 24 Ore, che ha alcune anticipazioni su una legge che ci riguarda tutti, che è la legge di stabilità, che sta prendendo forma. Dalla questa legge di stabilità si capirà di quante risorse pensa di aver bisogno lo Stato italiano, e in particolare, secondo i calcoli del ministro dell'economia Padoan, e anche come queste risorse verranno reperite. E allora il titolo: 1 miliardo per le imprese sull'IRES, ipotesi mini taglio. Padoan appunto ha dichiarato sulle tasse, per quanto riguarda le tasse il governo è unito. Ci sono molte analisi, una è quella di Dino Pesole, la spinta che serve al PIL. E poi un'altra analisi sul Sole 24 Ore di Guido Rossi, che riguarda invece l'Europa e la questione dei migranti. Se all'Europa manca il canto di Nausicaa. Il pezzo inizia in copertina e continua poi a pagina 18. Come ogni domenica sul Sole 24 Ore, la lettera al risparmiatore di Vittorio Carlini, che questa settimana si concentra sul titolo Enel. È una pagina intera che poi trovate a pagina 16, con i consigli appunto a chi ha già questo titolo in portafoglio, magari sta pensando di inserirlo nel proprio portafoglio. La fotonotizia però sul Sole 24 Ore, come sulla maggior parte dei giornali, è dedicata a Flavia Pennetta, che è la tennista che ieri, battendo un'altra italiana, Roberta Vinci, 7-6, 6-2 agli US Open, il più importante torneo di tennis americano, uno dei quattro del Grande Slam, appunto è diventata la regina degli US Open. Renzi, sapete, è volato, l'avete sentito, è volato a New York per questa finale, e scatenando una polemica politica che poi magari vedremo, perché un po' tutti giornali ne danno conto. Il Corriere della Sera ha in primo piano la notizia della Pennetta, appunto, che vince questo derby italiano, con anche l'altra notizia del ritiro probabilmente della Pennetta dalle competizioni, o comunque sarà forse graduale, però sicuramente tra un anno, questo si è capito dalle sue parole, non sarà più una giocatrice professionista, perché ha detto: questo è il mio ultimo US Open. La fotonotizia però in realtà è dedicata a quel, diciamo, bizzarro personaggio anche nel vestire, che è Corbyn, che è diventato il nuovo leader del Labour, il principale partito di sinistra britannico. Antonio Polito firma il commento: vince un altro ribelle antisistema. Dico perché è bizzarramente vestito, perché nella foto pubblicata dal Corriere della Sera, appunto, Corbyn ha dei bermuda, delle sneakers con i calzini neri, proprio appena che spuntano appena dalle sneakers, è una specie di polo, e sotto braccio una rudimentale cartella. Il titolo principale del Corriere della Sera però è dedicato a una questione invece tutta italiana, che prende spunto dal sondaggio che ogni domenica viene pubblicato sul Corriere della Sera, che in generale riguarda la situazione dei vari partiti, chi si voterebbe, singole questioni sulle quali viene interpellato un campione di italiani. Oggi l'argomento principale è quella della riforma costituzionale del Senato. PD bloccato tra mediazioni e veti. Secondo il sondaggio sarebbero favorevoli alla riforma, questa riforma che, lo ricordiamo, prevede di fatto l'abolizione del Senato elettivo e l'abolizione di quel bicameralismo perfetto che abbiamo sempre avuto in Italia, cioè dove le nostre due Camere del Parlamento, il Senato e la Camera dei Deputati, sostanzialmente facevano lo stesso lavoro. Questo dovrebbe cambiare, sarebbero appunto favorevoli 2 cittadini su 3, però il 73% resta favorevole all'elezione diretta, perché bicameralismo perfetto sì o no, la funzione del Senato appunto secondo 2 cittadini su 3 deve cambiare. Però questa, così come è fatta la riforma, sapete che non è più prevista l'elezione diretta, cioè da parte di noi cittadini, dei senatori che verrebbero invece nominati. Su questo si è scatenato anche il dibattito all'interno dello stesso PD, e su questa questione, secondo il sondaggio, appunto anche gli italiani sarebbero con la minoranza del PD, per intenderci, che vuole un Senato ancora elettivo. La Repubblica, fotonotizia di Flavia Pennetta e Roberta Vinci che si abbracciano, perché comunque è stato molto bello anche vedere queste due campionesse che non si guardavano in cagnesco, era una sana competizione, non l'hanno fatto né prima né durante né dopo l'incontro, e infatti questo abbraccio fotografato dalla Repubblica è appunto subito dopo l'incontro, quindi la sconfitta di Roberta Vinci da parte di Flavia Pennetta in 2 set. I commenti sono due, uno di Vittorio Zucconi, Little Italians incantano New York, Vittorio Zucconi è lo storico inviato di Repubblica negli Stati Uniti, e l'altro di Gianni Clerici, ex tennista diventato commentatore sportivo, uno slam di amicizia. In prima pagina anche, la notizia poi la trovate anche sugli altri giornali, i premi assegnati ieri nell'ultimo giorno del Festival del Cinema di Venezia, i Leoni d'Oro, cioè i premi per i miglior film, sono andati a due registi dell'America Latina, mentre la Coppa Volpi, che è il premio per la miglior attrice, l'Oscar diciamo come attrice protagonista, è andata a Valeria Golino, e la foto è appunto di Valeria Golino che bacia la Coppa Volpi. Poi in prima pagina anche quella che viene definita la svolta Labour, vince Corbyn il rosso, ha ottenuto a queste primarie del Labour il primarie, diciamo, sono di fatto, lui è diventato il segretario, ma sono anche delle primarie, perché se si dovesse votare oggi, Corbyn sarebbe il candidato del Labour come premier britannico. Vince Corbyn il rosso con il 59,5% delle preferenze, viene definito un leader radicale, tra le sue prime dichiarazioni, basta imporre fardelli ai soliti poveri. Il Messaggero ha un titolo ancora diverso, stessa fotonotizia però di questo abbraccio tra Flavia Pennetta e Roberta Vinci, con anche una piccola foto nell'angolo destro della fotografia, che è quella di Matteo Renzi che batte le mani, perché appunto Renzi era in tribuna perché è volato a New York per vedere questa finale. Il titolo principale però è dedicato alle previsioni, alle dichiarazioni ieri del ministro dell'economia Padoan e alle previsioni sia del governo, sia sul PIL, sia sulle tasse, quindi sulla misura, sulla legge di stabilità, e quindi il titolo: il governo alza le stime, blinda e taglia le tasse. La stima della crescita del PIL è stata appunto alzata all'1,6% per il 2016 c'è tra l'altro da risolvere la questione, ed è palesemente sul tavolo del governo, delle province, perché come sapete, come ricorda anche chi segue Alessandro Milan al Mattino, che fa il conto delle settimane decisive passate per la tanto annunciata abolizione delle province, che però non si è ancora concretizzata, c'è anche il nodo appunto di come gestire tutte le persone che lavoravano in questi enti e che dovranno essere ricollocati. Sulla questione di Renzi che è volato a New York, il Messaggero a pagina 3 fa un divertente excursus, lo fa Mario Aiella: quando la partita serve al potere, l'irresistibile tentazione dei politici. C'è per esempio la foto di Romano Prodi con Fabio Cannavaro e Giovanna Melandri, che all'epoca era ministra della cultura e dello sport nel 2006, quando l'Italia divenne campione del mondo di calcio, e poi Sandro Pertini ed Enzo Bearzot, che invece festeggiarono insieme l'Italia campione nell'altro mondiale nel 1982. Quello che Mario Aiello ricorda come il attore C di Prodi, con questo successo a Berlino nel 2006, a Berlusconi invece andò bene col Milan ma non con la nazionale, cioè Berlusconi non, durante la sua permanenza, lunga permanenza al governo, non riuscì a festeggiare con una vittoria al mondiale di calcio dell'Italia, però ne festeggiò tante del Milan. La Stampa ha una fotonotizia, questa volta non dell'abbraccio tra le due tenniste, ma di Flavia Pennetta che solleva la coppa che viene consegnata alla vincitrice degli US Open, una vittoria che vale 3 milioni di dollari e l'ottavo posto al mondo per la nostra tennista. Vi segnalo però un commento di Bill Emmott, che è ex direttore dell'Economist, ora commentatore, un profondo conoscitore ovviamente della Gran Bretagna essendo un cittadino britannico, ma anche dell'Italia, ha scritto due libri sull'Italia, è un collaboratore fisso della Stampa. Il suo commento alla vittoria di Corbyn è: il Regno Unito si allontana dall'Europa. Due articoli perché per quanto, come abbiamo detto, il PD continua a essere diviso sull'importante riforma del Senato, anche dall'altra parte, nel centrodestra, non tutto è tranquillo, e così due approfondimenti sul centrodestra sulla Stampa, uno di Cesare Martinetti intitolato "Ma Berlusconi sta con Merkel o con Putin?" e lo spunto è il recente incontro tra Berlusconi e il presidente russo, e poi un altro approfondimento di Mattia Feltri, quella gara a chi fa prima l'autogol, ed è appunto l'analisi anche di tutte le divisioni all'interno di Forza Italia e l'incerto futuro, vista la leadership un po' così traballante ma per stessa ammissione dell'interessato di Berlusconi, che però non ha ancora un successore come leader di Forza Italia e del centrodestra. L'Avvenire ha invece un titolo ancora diverso e anche una fotonotizia diversa dagli altri, anche se poi c'è sul palchettone, c'è quella fascia che noi giornalisti chiamiamo così, che è quella fascia dove si possono inserire alcuni strilli subito sotto il nome della testata. Quindi lì c'è la foto dell'abbraccio tra le due tenniste e la notizia di questa finale tutta italiana, della finale femminile tutta italiana degli US Open, ma la fotonotizia principale è dedicata alla questione dei migranti e a quello che sta succedendo in Ungheria. L'Ungheria alza altre barriere, ma c'è chi aiuta, c'è un reportage poi a pagina 7 proprio appunto dall'Ungheria. Il titolo però principale è dedicato alla scuola, perché domani nella gran parte delle regioni, delle città, è l'inizio ufficiale delle lezioni, quindi domani ritorno in classe per gran parte degli studenti. In ruolo ci sono 8.532 docenti, però ci sono ancora molti posti scoperti e il titolo appunto scelto per riassumere questa inizio di anno scolastico sotto l'insegna della riforma, la scuola comincia con il sì dei prof. Perché questo sì dei prof? Perché solo il 3% rifiuta l'assunzione anche lontana. Sapete che queste nuove assunzioni erano in un certo senso condizionate al fatto che sì, l'assunzione c'è, però può essere che tu venga assunto, tu insegnante, in una sede che è diversa da quella dove hai lavorato finora. All'inizio si era scatenata la polemica, si era detto che gli insegnanti dovevano avere il diritto di dire no a uno spostamento troppo lontano da casa, poi però alla fine, alla prova dei fatti, soltanto il 3% appunto ha rifiutato l'assunzione anche quando questa fosse lontana. Titolo dedicato alla scuola anche per l'Unità, per chi suona la campanella. Da domani tutti in classe con la riforma che inizia a cambiare la scuola. Ci sono pagine 2 e 3 dedicate appunto a questi cambiamenti. La fotonotizia invece è dedicata a Fabio Aru, altro sportivo italiano che ieri ha compiuto anche lui una grande impresa e oggi verrà consacrato come vincitore della Vuelta, la grande competizione ciclistica spagnola. Molto critica l'Unità. Forse qualcuno si stupirà di questo, forse no, con questa vittoria di Jeremy Corbyn come nuovo leader del Labour. Forse nel senso l'Unità è Matteo Renzi ha sempre dichiarato di ispirarsi alla sinistra europea moderna riformista, alla Blair, alla Tony Blair. Ecco, Tony Blair sono settimane, mesi che dice che una vittoria di Jeremy Corbyn sarebbe stata una sconfitta per il centro-sinistra. La vittoria di Jeremy Corbyn c'è stata e quindi infatti il titolo: Corbyn si prende il Labour, sconfitta l'ala bleriana. Il commento è di Andrea Romano, che è un deputato del Partito Democratico, che inizia in copertina dell'Unità e continua a pagina 11: la sinistra che si fa del male. Il giornale ha una doppia fotonotizia: da una parte Aru che trionfa la Vuelta, dall'altra Pennetta che trionfa gli US Open, ma il titolo è dedicato a un po' così fomentare questa polemica su questa trasferta di Renzi a New York per vedere la finale, perché il titolo è: a Renzi piace vincere facile, vola a New York per rubare la scena alle nostre tenniste, ma su alluvioni e contestazioni non si è mai visto. E poi c'è un riferimento a un dato che è uscito ieri: in Italia le tasse patrimoniali, di cui si parla spesso, hanno raggiunto una cifra record, valgono 48 miliardi. Dalla prima pagina di Libero, stessa polemica, e qui c'è un disegno che è una caricatura di Benny con Renzi con in mano una racchetta da tennis che cavalca l'aereo di Stato, l'A330, che tra l'altro non è ancora operativo come aereo di Stato, ma lo sarà. Volé di Stato, questo è il titolo. Renzi rifila un pacco ai lavoratori di Verona, dove era atteso, agli espositori della Fiera delle Valli, per volare a spese nostre, si parla di 200.000 euro per il costo di questa trasferta, a New York e vedere la finale di tennis tra Vinci e Pennetta. Però il tempo per andare a trovare Marò in India, la figlia dei massacrati di Palagonia, non l'ha trovato. Ci lasciamo però un attimo e ci ritroviamo subito dopo le informazioni. In primo piano. Ancora buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali, siamo arrivati al Fatto Quotidiano, che come il giornale Libero se la prende con questo volo di Stato su cui è salito Matteo Renzi per andare a vedere la finale di ieri a New York degli US Open. Secondo Libero la spesa è stata di 200.000 euro, per il Fatto Quotidiano invece 150.000. Renzi spende 150.000 euro per volare alla partita di tennis. Questo è il titolo principale del Fatto Quotidiano, che poi ha anche in prima pagina la notizia della vittoria di Flavia Pennetta e agli US Open e di Valeria Golino a Venezia come miglior attrice, le italiane che vincono da Venezia agli Open. Altra fotonotizia dedicata a Jeremy Corbyn, che viene definito il leader del Labour rosso fisso, che manda in soffitta Blair & Company. Il manifesto ha la stessa foto del Fatto Quotidiano, cioè di Jeremy Corbyn che alza la mano in segno di saluto e di vittoria ai suoi sostenitori, il titolo London Calling. Jeremy Corbyn, leader della sinistra socialista anticapitalista, anti-austerità e contro la guerra, è eletto segretario del Labour Party al primo turno con un assordante 59%. Con lui si sono schierati i giovani. L'affermazione cancella l'era Blair e riscatta la sconfitta di Ed Miliband dopo Syriza e Podemos, dopo De Mirtas e l'emergere del socialista Sanders negli Stati Uniti, è una buona notizia per la sinistra europea. Finiamo con la prima pagina della Gazzetta dello Sport. Il titolo principale è: i campioni siamo noi, da una parte Flavia Pennetta, da una parte Fabio Aru, il ciclista che abbiamo oggi verrà consacrato vincitore della Vuelta, e poi però il palchettone, abbiamo detto, quindi quella parte del giornale subito dopo il titolo della testata è dedicata al derby, perché questa sera ci sarà appunto il derby Inter-Milan alle 8.45 a San Siro, e sarà un po' una prova del fuoco per entrambe le squadre, per entrambi gli allenatori. Poi anche un titolo sull'anticipo di ieri, dove sapete, l'avete sentito anche nel GR, la Juventus ha pareggiato con il Chievo. Ma vediamo un po' alle pagine interne. Torniamo sul Sole 24 Ore, che ha un approfondimento sulle mosse che farà la Federal Reserve Bank, la banca centrale americana, di cui abbiamo parlato tanto nelle settimane scorse, un po' perché c'è stato la riunione della Federal Reserve in Wyoming, e poi perché comunque molti guardano alle prossime mosse sugli interessi, perché poi da quello che fa la Federal Reserve dipendono anche le mosse di altre banche centrali. E allora Moira Longo analizza appunto il rischio Fed su 2.400 miliardi di bond, ecco l'impatto globale di un eventuale rialzo dei tassi americani, problemi soprattutto per le aziende dei paesi emergenti. Una pagina intera con un commento di Walter Riolfi: i quantitative easing come ultima e unica risorsa, che sapete sono questo strumento di politica monetaria molto usato dalla Fed negli anni scorsi, poi usato anche da Mario Draghi, e che con questa mossa ha un po' ridato stimolo all'economia europea, quindi ha funzionato, e poi usati anche più di recente dalla banca centrale e dal governo cinese per rimettere un po' per ridare un po' di stabilità all'economia e alla finanza cinese, che sapete aveva subito il tracollo delle borse di Shanghai e lo scoppio della bolla finanziaria e non solo. C'è un'analisi anche di Marco Valsania, sempre sulla questione della Fed, intitolata "I silenzi della Yellen". La Yellen è Janet Yellen, primo governatore donna della Federal Reserve, e lo scontro tra falchi e colombe. Poi vi segnalo un approfondimento su una delle più attese IPO, cioè Initial Public Offering, cioè debutti in borsa, che è quello di Poste. IPO delle Poste, Laura Serafini ci racconta: spazio ai fondi sovrani. Cioè, da domani il CEO, l'amministratore delegato di Poste, Caio, completerà il giro di incontri con gli investitori esteri, quelli che vengono chiamati i roadshow, dove in generale l'amministratore delegato e il team che con lui lavora presenta in giro per il mondo agli investitori appunto i vantaggi di investire in un titolo alla vigilia della quotazione. E appunto adesso si capirebbe che molti fondi sovrani sono interessati. E poi una inchiesta di Claudio Gatti, che è uno dei nostri giornalisti che più spesso fa questi approfondimenti, queste inchieste sugli argomenti più svariati. Questa volta la trovate a pagina 19 del Sole 24 Ore di oggi, inchiesta sulla RC Auto: il Sud paga il conto dell'illegalità. Campania, Puglia e Calabria sono le regioni meno virtuose, cioè dove i premi sono più cari a causa dei sinistri più frequenti e costosi. Dalle pagine interne del Corriere della Sera vi segnalo un'intervista, l'ennesima direi, a Laura Boldrini, presidente della Camera, l'intervista di Maurizio Caprara. L'argomento principale sono i migranti. Boldrini dice: patto per l'integrazione europea, solo così si battono i populismi. E a questa vi leggo un paio di domande. Il presidente François Hollande e il premier David Cameron sono orientati a far bombardare la Siria da aerei di Francia e Regno Unito, postazioni dell'autoproclamato califfato. Secondo lei è una scelta utile per alleviare le sofferenze di quanti adesso scappano dalle loro case? E Laura Boldrini risponde: per esperienza di anni sul terreno a constatare gli effetti collaterali dei conflitti, ricordiamo che Laura Boldrini è stata, prima di essere eletta tra le file di SEL al Parlamento italiano e poi Presidente della Camera, è stata portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Ecco, allora dice: con questa esperienza che ho, direi che operazioni di questo genere, peraltro senza cornice internazionale, hanno dato di rado i risultati auspicati. Si è visto da ultimo in Libia. La crisi siriana va risolta essenzialmente a livello politico. Che cosa però questo voglia dire? Laura Boldrini non lo dice, probabilmente non lo sa nessuno, e quindi è un po' il solito proclama senza molti effetti pratici. Dal Corriere Salute, che è il supplemento appunto dedicato alla salute, non il supplemento però le pagine dedicate alla salute che ogni domenica il Corriere pubblica, vi segnalo un approfondimento. Tanto se ne è parlato anche un paio di giorni fa a Cuori e Denari, però appunto qui trovate ancora riassunte tutte queste nuove regole sui certificati medici. Quindi da una parte l'attività fisica quando serve l'ok del medico, e dall'altra tutte le varie nuove richieste per appunto fare diverse attività, e anche a seconda dell'età di chi deve praticare questa attività. Negli ultimi mesi si è molto discusso sull'opportunità di rivedere i parametri di prevenzione per chi vuole svolgere attività fisica a diversi livelli. C'è chi chiede meno rigore e chi ne vorrebbe di più. Per ora il rilascio del certificato di idoneità segue queste regole. Appunto, qui ci sono tutte le regole. Ci lasciamo però un attimo per le informazioni sul traffico, ci ritroviamo subito dopo. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta In Primo Piano. Ancora buona domenica da Giulia Crivelli. Eravamo sulle pagine interne dei giornali. Vi farò ancora un paio di segnalazioni, poi passiamo ai supplementi domenicali. Sulla questione di Renzi, che è volato a New York, ci sono molte polemiche per questo viaggio deciso all'ultimo momento per vedere la finale tutta italiana degli US Open. E vi leggo la pagina 5 della Stampa, la rubrica Paesi e Buoi di Mattia Feltri. Grandi polemiche per il viaggio di Renzi alla finale degli US Open. Dicono che è molto renziano approfittare di uno spot simile, ma anche Romano Prodi andò alla finale dei mondiali 2006 e Mario Monti alla finale degli europei del 2012. Poi dicono che è molto renziano andarci con un volo di Stato, ma se non è una cosa di Stato questa, non si sa quale. Forse, piuttosto, è molto renziano che Renzi scelga un evento in cui, se gli va male, vince. Il riferimento naturalmente è che era una finale tra due italiane, quindi chiunque avesse vinto sarebbe stato un successo. Vi segnalo, come vi avevo detto, il reportage di Avvenire da Hošk, che è un paese dell'Ungheria, nei campi profughi trattati da schiavi. Visita al centro di Hošk in Ungheria dell'inviato dell'Avvenire Nello Scavo, che ci racconta pure come vivono in questi campi profughi, e al di là poi della questione del muro voluto dal presidente Orban, come vivono appunto i migranti che arrivano in Turchia. Vi dicevo delle pagine interne. Allora cominciamo come sempre dalla domenica del Sole 24 Ore e come sempre dal breviario di Gianfranco Ravasi, che oggi parte da una citazione di Rousseau e si intitola Interrogare. La citazione è questa: l'arte di interrogare non è facile come si pensa, è più arte da maestri che da discepoli, bisogna aver già imparato molte cose per saper domandare ciò che non si sa. E il commento di Ravasi è: ha pienamente ragione Rousseau con questa affermazione presente nel suo romanzo epistolare La nuova Eloisa del 1761, storia di una passione tra un precettore e la sua allieva. L'interrogare è infatti un'arte, talora ben più difficile del rispondere. La scienza procede attraverso la ricerca che si alimenta di quesiti, e porre correttamente le domande presuppone già un retroterra di sapienza e conoscenza. Il bambino, coi suoi implacabili perché, rivela il desiderio di sapere, l'ansia di capire e la curiosità della scoperta, che poi nell'adulto superficiale verranno sterilizzati. Senza il fiore delle domande, soprattutto quelle ultime sul senso della vita, sulle scelte decisive, sui valori autentici, non si avrà il frutto delle risposte che indicano una strada o una meta nell'itinerario dell'esistenza. E già il Socrate platonico ammoniva che una vita senza ricerca non merita di essere vissuta. tratta la prima pagina del domenicale, però vi segnalo anche la rubrica Memorandum di Roberto Napoletano, il nostro direttore, nostro del Sole 24 Ore e di Radio 24, che oggi parte da una citazione di Luigi Einaudi. L'intervento che è tratto dall'intervento di Luigi Einaudi alla sottocommissione della Costituente, cioè quel gruppo di persone che poi arrivarono a stilare il titolo della nostra Costituzione l'8 gennaio 1947, con una replica di Costantino Mortati su come regolare la fiducia al governo. E il commento a questo, il titolo della rubrica di oggi è: la fiducia di Einaudi e la scintilla che serve al paese. Vi leggo l'ultima parte della rubrica: è ci sono segnali buoni da cogliere, guai a sottovalutarli, a patto che sia chiara una cosa: oggi come ieri scorciatoie non esistono e di certo non servirebbero. La copertina, però, il pezzo di apertura è dedicato a Mario Vargas Llosa, un intervento del grande scrittore venezuelano, perché oggi stasera alle 6:30 Vargas Llosa chiuderà il Festival Letteratura di Mantova, e poi domani lunedì riceverà una laurea honoris causa a Palermo, e questo è parte del testo che leggerà, intitolato Come si scrive un romanzo. Volete diventare scrittori? Leggete qui come procede il premio Nobel Vargas Llosa, ma non fatevi illusioni, il suo è un metodo personale che rifugge i luoghi comuni. E a proposito di grandi scrittori, la recensione di Io Partenope, il romanzo pubblicato postumo di Sebastiano Vassalli, scomparso poco più di un mese fa. Il titolo è Oltre la chimera. La chimera è un altro dei famosissimi romanzi di Sebastiano Vassalli. Nella recensione di Giuseppe Lupo, il racconto, appunto la lettura di questo romanzo postumo, che è ambientato nella Napoli del 600, così si chiude il lungo viaggio in Italia dello scrittore novarese. Un approfondimento anche sul ritrovamento archeologico, antropologico di un nuovo, diciamo, uomo di Neanderthal, che è stato fatto in Sudafrica. L'importante scoperta di Rising Star Sudafrica, di uno scheletro di maschio adulto di questa nuova specie che è stata definita Naledi, che apre, secondo Guido Barbujani, una serie di interrogativi. L'uomo, con l'H naturalmente, come Homo sapiens, il nome scientifico della nostra specie, che soppianterà Lucy. E poi un bellissimo racconto di quello che è un nuovo grande polo vicino qui a Milano, vicino alla Lombardia, è a Lugano, si chiama Lugano Arte e Cultura, abbreviato in LAC, aperto il polo culturale diretto da Michel Gagnon, un complesso che si propone come cittadella delle arti e snodo urbanistico. La prima pagina della lettura, il supplemento della domenica del Corriere della Sera, come sempre affidata a un artista, in questo caso è una coppia di artisti che lavorano insieme, svedesi, Natalie Djurberg e Hans Berg. Dall'interno vi segnalo un'intervista di Stefano Montefiori a uno psicanalista e psichiatra francese, Serge Tisseron, che si concentra in particolare sul tema dei robot. Ne abbiamo sentito parlare tanto anche a Radio 24 quest'estate, come saranno i robot del futuro, le macchine del futuro, ci saranno, quanto presto. Il titolo dell'intervista: i robot ci ameranno, niente paura. Serge Tisseron esplora l'empatia fra uomini e macchine, la tecnologia porta speranze, basta non confonderla con noi. E poi un altro divertente articolo intitolato Di che segno sei? Non segno zodiacale, ma segno nel senso di tutti quegli emoticon, gli emoji che ormai abbiamo imparato a conoscere, che sono presenti sia nel nostro modo di comunicare via SMS o via mail o con tutti gli altri social network, ma anche ormai nella comunicazione vera e propria, nelle pubblicità. E allora Giuseppe Antonelli ci racconta, appunto, punteggiatura per l'occhio, per l'orecchio e ora per il cuore. L'interpunzione ci descrive, il punto fermo ci fa litigare. La grammatica non dà regole certe e la mente trova un nuovo zodiaco. Un altro bellissimo articolo dalla lettura è un reportage di Mark Franchetti da un carcere in Russia, la prigione russa che si chiama Colonia 56, anche conosciuta come Aquila Nera, che si trova nella regione degli Urali, 400 km a nord di Ekaterinburg e quasi 2500 km a nord-est della capitale. È una prigione dove sono rinchiusi 260 detenuti quando d'inverno la temperatura esterna è di 45 gradi, complessivamente questi 260 detenuti hanno ucciso 800 persone. Viaggio ai confini della disperazione, dove però si accendono lampi di umanità. La copertina della domenica di Repubblica invece è dedicata a Pierpaolo Pasolini, reperti PPP, quindi Pierpaolo Pasolini, suoi occhiali, un pettine sdentato, la cartina dell'Italia, 10 sari, don 3 preservativi e il libro di Nietzsche che non poté finire di sottolineare. A 40 anni dall'omicidio di Pierpaolo Pasolini saranno esposti per la prima volta gli oggetti ritrovati quella notte sulla sua Alfa Romeo. E anche l'ultima segnalazione che riesco a farvi, un bel incontro di Laura Putti con Sebastião Salgado, il grande fotografo brasiliano la cui vita è stata anche raccontata in un documentario da Wim Wenders. Difficile far parlare di sé il più celebre tra i fotografi, ancor più vano esaltarne il coraggio. Qualche piccolo aneddoto però nel suo atelier parigino siamo riusciti a carpirglielo. Pagina 44 della Repubblica. Era purtroppo l'ultima segnalazione che riesco a farvi, ma trovate tanti approfondimenti interessanti sui quotidiani di oggi e sui supplementi in edicola. Ancora una buona domenica, buona lettura da Giulia Crivelli.